Ah, ah, prova. Prova. Ok. Vabbè, le parole di questo gioco che abbiamo fatto erano incredibilmente latte, mozzarella e condivisione. E quindi insieme abbiamo creato questa storia che adesso vi racconteremo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Beh, come sentite, sono circondato da capre, oltre che dagli abitanti della Val di Ginocchio. Sono qui, inviato in Val di Ginocchio, all'altitudine di 2013 metri. Beh, come sapete, la Val di Ginocchio, grande produzione di latte, caseifici, mozzarelle, caprine, esportate in tutto il mondo, però è successo qualcosa di straordinario. Insomma, per capirlo meglio, adesso andiamo a sentire la testimonianza di un abitante della valle. Sì, buongiorno, sono molto contenta di portare qui la testimonianza come abitante della Val Ginocchio. E faccio questo lavoro da 25 anni, ci occupiamo di mungitura di capre, produzione artigianale di mozzarella e ricotta, ma qualche anno fa siamo stati presi da una noia incredibile, c'è stata proprio una crisi di noia e nessuno dei collaboratori e degli altri abitanti delle altre malghe che hanno come noi greggi di capre avevano voglia di mungere. E soprattutto perché il fatto di riempire il secchio fino alle ginocchia e quindi di avere il latte alle ginocchia ci aveva un po' scoraggiato, quindi presi da questa noia abbiamo iniziato ad essere sia in crisi ma anche in conflitto. Non c'era più produzione di mozzarelle, nessuno riusciva ad avere latte per produrre mozzarelle. Insomma, grande problema, perché le mozzarelle caprine non si trovano più da nessuna parte, però a questo punto, insomma, è successo qualcosa di straordinario. Ci colleghiamo, quindi adesso qui abbiamo la testimonianza di una bambina della valle che ci racconterà quello che è successo. Stento a crederci. Sì, perché a un certo punto ci siamo proprio stufati. Questi adulti litigavano continuamente. Ecco, non andava bene, il latte non si poteva più bere, non potevamo più fare quello che ci piaceva e li sentivamo sempre litigare. E allora abbiamo chiamato un artista che ci aiutasse a riportare la pace nel paese. Il latte alle ginocchia è diventata la mozzarella più creativa del mondo, perché la nostra artista ci ha aiutato a colorarla di tutti i colori dell'arcobaleno e a farla in fili che unissero invece che dividere, e quindi ci ha aiutato ad unire la comunità e le case con fili colorati di mozzarella e a riportare la pace nel paese. Un grande esperimento artistico e forse anche sociale, infatti per capire meglio, decifrare questa dinamica, abbiamo anche chiamato un meta-analista che ci aiuterà a capire bene il processo. Anche politologo, grazie. Allora. Bene, come questa storia si connette con i margini? Il margine, perché comunque è importante anche non andare fuori tema. I margini, innanzitutto una malga, quindi se pensate subito qualcuno ha capito male, ai margini, una malga ha i suoi margini, quindi questo è un concetto molto importante. E poi si pensava anche a proposito del processo, perché comunque essendo un gruppo molto process oriented, le comunità marginali comunque sono comunità che si organizzano in maniera orizzontale, e è molto importante anche vedere come si è arrivati a questa magnifica storia. E poi smetto, poi ho finito. C'è stato questo processo molto coinvolgente, con una parte divergente, una parte convergente, che queste storie si mischiavano, si miscelavano, proprio è stato affascinante per me prendere parte a questo processo, e alla fine anche se poi c'è queste costanti riformulazioni e si è deciso alla fine per questo formato un po' tabloid, intervista, anche per comunque conoscere le persone reali che sono dietro a questa storia. E quindi adesso io in realtà non so più come andrà a finire, e passerei comunque la parola a qualcun altro. Sì, no, certo, ma perché sicuramente c'è stato un colpo di scena poi, perché e qui sentiremo per chiudere il nostro analista fine, le capre sono intervenute, insomma, sono messe in autogestione. Ciao! Siamo molto felici, perché ora non siamo gli unici produttori di latte. Avete sentito qui un esponente del movimento caprino si è unita insieme al consorzio di produttori, e adesso abbiamo questo nuovo prodotto che è la mozzarella ibrida, umani e non umani, di latte di caprino e latte alle ginocchia. Non so se forse il nostro analista voleva commentare qualcosa in chiusura, o forse siamo fuori con i tempi. C'è un problema tecnico, scusate. L'assaggiate la mozzarella? Non ancora, non ancora, ma sono sicuro che è buonissima e la troverete nei migliori supermercati qui in Val di Piastra. Grazie a tutti. Che dire, chiudiamo qua e assaggiate tutti la nuova mozzarella.